Per il mio punto di vista, ma stanno gestendo al meglio delle possibilità la situazione perché comunque è stata una cosa improvvisa, si sono dovuti riorganizzare completamente, stravolgendo tutto l'assetto dell'ospedale, quindi formando noi infermieri per la vestizione, la svestizione, la gestione dei caschi per la respirazione, insomma, quindi comunque le formate sono state, stanno facendo veramente il meglio che possono nel breve tempo che stavo disponibile, insomma, quindi secondo me stanno facendo al meglio, stanno facendo un buon lavoro Ok, e vediamo come va. bene, bene, Andrà. allora, bene, grazie mille, buon lavoro. Di niente, grazie mille, Grazie. grazie, grazie a voi.